le vie della mia città, spettatore di questa realtà, anime che si rincorrono all'infinito, vuoti di tempo in cerca di qualche mito, nascosto in un eterno nascondino, ponte a voltare spalle a vicino, tutto è comandato dalla ragione. Preparati a vedere tutto ciò che non ti può piacere. Cerca il sorriso in piccolezze, costruisci un mondo di certezze. Apri gli occhi e vedrai che nessuno è vissuto mai. Tutti ostaggi di se stessi, pure nel vuoto i gridi sono messi. Vedo bimbi che giocano a pallone, vicino a grandi con dosi di emozione, qualcosa per non pensare più a niente, ma non sono più persone in quel frangente. So come vuoti a perdere già persi, tutti uguali anche se si credono diversi, chiudo gli occhi e intanto vado avanti. E preparati a vedere tutto ciò che non ti può piacere. Cerca il sorriso in piccolezze, costruisci un mondo di certezze.